siete tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Scala. Me l'ha detto stamattina, domenica mattina. Io comunque anche contro la Cremonese ero in ballo, pensavo di giocare, magari non mi ha fatto giocare. Oggi pensavo di non giocare, mi ha fatto giocare, per cui va bene così. E che cosa ha pensato subito? Mamma mia, il Milan. No, sinceramente è quello che mi ha stupito, e forse sto ancora sognando, no? Io sono entrato in campo e pensavo di essere a giocare con la primavera, forse per quello che non ho fatto male, capito? Perché ero tranquillo dentro. Il cross verso Spinesi, Buffon, prudenza, ancora Buffon, ripallo e poi salva la difesa della Parma, straordinario Buffon. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Seedorf è pronto al cross, arretrato Inzaghi, Buffon incredibile! Miracolo di Buffon! And you want me to go Zidane allarga ancora per Sagnol, arriva il traversone di Sagnol, cerca Zidane. Siamo ancora in piedi, 14 minuti, calcio d'angolo per la Francia, la manona di Gigi Buffon. Sì, è stata una buona parata, però penso che una buona parata. Che il portiere della squadra campione del mondo debba fare ste parate, scusate se già mi avvalgo di questo titolo. L'hai meritato. Oggi ci va di partire dolci così, con 20 anni di Gigi Buffon in porta. Ciao Giovanni Capuano, grazie. Ciao, tu dove eri 20 anni fa? Devo fare i conti, come dicevo. No, perché oggi ho letto sul Corriere dello Sport, sto prendendo la memoria. Sul Corriere dello Sport ho letto che 20 anni fa l'unico che praticamente aveva già debuttato in Serie A e c'era quando Buffon giocò quel famoso Parma-Milan era un certo Francesco Totti. Tutti gli altri più o meno sono stati pensionati. Sì, ma ciao Pierluigi Pardo. Come va? Come va? Come ti sento bene? Ma che no, sei buono, guarda che adesso oggi stiamo provando una nuova tecnologia, eh? Aerospaziale. Io non mi sento benissimo, però l'importante è voi sentiate bene me. Ho talmente tanto la coscienza sporca per questi anni, per queste cose telefoniche. L'importante è mi sentiate. Quindi ecco, stavolta poi sei tu che ci metti giù. Esatto, è una vergogna. La soddisfazione, no, dai. Dai, siamo in fase sperimentale. Bene. Ma quando è che smettono Buffon e Totti? 20 anni sono tanti, Speriamo tu mai. Eri un bambino, speriamo tu eri, avevi appena finito il liceo, eri ai primi anni di università, facevi magari ancora le figurine. 95 ero, credo, a Londra a fare l'Erasmus, quindi sì, ero a Londra a fare l'Erasmus, e quindi insomma diciamo sì, ero abbastanza un pischello, come si dice a Roma. Sono leggende, qui si rischia ovviamente la retorica, però è un rischio che secondo me vale la pena correre, perché insomma al netto di tutto sono poi quelle figure leggendarie che rendono il calcio la cosa grande e importante che è in tutto il mondo. Non sono molte, quindi ce le coccoliamo, gli vogliamo bene e ce li portiamo nel cuore, indipendentemente poi dal fatto che chiaramente molti hanno avuto, nel caso di Totti o adesso nel caso di Buffon, questi giocatori sempre contro, no? Sempre sì. Dall'altra parte, tranne che in nazionale. Sono però leggende. Sono leggende, e la cosa più bella e forse meno scontata è pensare che dietro a questi 20 anni così clamorosi c'è stato un impegno, una quantità di docce, di allenamenti, di sudore, di fatica che non è trascurabile, perché il solo talento smisurato però non sarebbe bastato. Quindi, no, per durare così a lungo no, mai, non basta mai, anzi chi è arrivato così in là ad altissimo livello ti dice che devi allenarti sempre di più, devi lavorare sempre di più per mantenere certi livelli. Invitiamo tutti a parlare di Buffon e dintorni, di quello che volete, 800 24 00 24, numero verde, compreso il fatto che finalmente stiamo camminando verso un weekend di sport in mezzo a una settimana di nebbie totali, che in teoria è grandissimo, verrà aperto dal Classico di Spagna alle 6:15 di sabato pomeriggio, precederà in perfetto sincro il Classico italiano Juventus-Milan. Di solito le soste spezzano il ritmo a chi sta correndo forte e i giocatori che viaggiano per le nazionali. Sul secondo punto abbiamo già delle certezze perché sono tanti quelli infortunati, sul primo vediamo, Giovanni. Sì, guarda, io ho dato un'occhiata al calendario, ti dico che secondo me al netto di Juve-Milan, dove a rischiare tutto è la Juve, perché la Juve davvero ha solo un risultato a disposizione, altrimenti si devono riscrivere tutto, tabelle, sì, prospettive, eccetera, secondo me la partita trappola è Verona-Napoli. Non fatevi ingannare dall'ultimo posto in classifica del Verona, che è in crisi, è una squadra che sembra senza né capo né coda, ma la trappola questa settimana ce l'ha il Napoli, ancor più della Roma-Bologna, che pure con Donadoni, insomma, il Bologna è una squadra diversa, però la Roma senza Gervinho, sì, però, diversi acciaccati. Però io ho l'impressione che chi può rischiare davvero qualcosa in questo turno sia il Napoli, per la prima volta senza alternative davanti sugli esterni, comunque Roma, anche la Roma. Roma, però insomma nel Napoli si tocca per la prima volta un equilibrio che era stato trovato in quella famosa settimana che aveva portato al doppio 5-0 con Lazio e Bruges. È la prima volta che succede, vediamo anche come torna Higuaín, perché spesso Higuaín è tornato un po' spompo. Sì, poi in questo caso il discorso che faceva Carlo è giustissimo, nel senso che poi è chiaro che quando tu blocchi, cioè, come il time out nel basket, no? Quando, sì, non a caso quando gli allenatori sono in difficoltà chiamano time out, e quando le cose vanno bene non lo chiamano mai. Però in questo caso andavano tutte forte, nel senso che andava forte l'Inter con la sua regolarità, la sua solidità, andava forte la Fiorentina, andava forte la Roma che aveva trovato finalmente il ritmo, andava forte il Napoli, quindi è difficile interpretare e leggere questa cosa qui. Sicuramente non c'era la tendenza di qualcuno che andava male e che quindi può aver trovato giovamento, andavano tutte bene, quindi a sabato e domenica l'ardua sentenza. La sentenza su chi ha pagato di più la sosta per le nazionali. Ci fermiamo per il traffico, 800 24 00 24, per intervenire. Tutti convocati. Tutti convocati. Ecco i messaggi molto carini, soprattutto WhatsApp 349-238-6666. Io all'età di Buffone quel giorno ero allo stadio, me lo ricordo benissimo, mi ricordo anche quando parlò riguardo a Ronaldo. Oppure da tifoso del Milan, auguri per i 20 anni di carriera di Gigi Buffon, orgoglio internazionale, lo scrive Eddie dalla Tunisia. Mentre c'è Emanuele che scrive un sms allo stesso contatto: Pardo si sente così bene che mi sembra di averlo in macchina. Sei in macchina, non so, con Emanuele, magari sei nel traffico di Vico e Quenze, hai sentito gli aggiornamenti del traffico, Vico e Quenze ancora annunziata oggi. Pardo è ottimo, bravi ragazzi, complimenti, forse ce l'abbiamo fatta via WhatsApp. Wow. Sto gasando, dai, vi canto qualcosa? Sì, dopo. Is it getting better? Sì, vai. Is it getting better? È bella quella. Do bella you feel quella. The same? Senti, ma c'era anche Tony nel 95, che tu sappi, tu hai memoria pazzesca. Credo di no. Tony nel 95, no, forse era Vicenza. Forse era Vicenza. Adesso facciamo una verifica. All'alba della carriera. Quando scrivi il prossimo libro, Pardo? Ma io anche mai, nel senso che non ho, diciamo, questi. Avevo una mezza idea con una casa editrice di fare un romanzo, ma per il momento l'ho abortito perché è una roba troppo seria. Però, insomma, se vi serve, scrivo. Che dobbiamo scrivere? Ah, non lo so. Intanto complimenti a Mirko Graziano, collega della Gazzetta, che è riuscito a scrivere un libro su Bobo Vieri. Che farlo parlare mica poco, farlo parlare per un libro intero, non so come ha fatto, sono curioso di chiederlo. Ma soprattutto, complimenti anche al barone Franco Causio. Vincere è l'unica cosa che conta, scritto con Italo Cucci. Ciao Barone. Ciao Pierluigi. Ciao Franco, piacere sentirvi. Piacere nostro, titolo del libro, da una frase che però non è tua, è una frase notissima, è di un tuo presidente, vero? Bene, noi l'abbiamo fatta nostra perché ce la ripetiamo in continuazione, Bonifest, quindi non potevi dimenticarla. Sai che io sono d'accordo con questa frase, poi possiamo fare un sacco di filosofia, ma alla fine... Ma non solo sul calcio, vale per la vita, per tutti, sì. Per la vita di tutti i giorni, vincere... Beh, l'approccio deve essere quello, l'approccio di chi... soprattutto Luigi, tu lo sai benissimo perché tutti i sabati andiamo quando era la Juventus a Pile, insomma, l'abbiamo fatta risalire anche noi, possiamo dire, dalla via là, no? Noi osservavamo, però è vero, e in generale, al di là, poi adesso parliamo ovviamente di Juventus, di spirito bianconero, però al di là di tutto credo che sia una filosofia sana. Ovviamente poi per chi osserva, per chi valuta, ci sono sconfitte che sono clamorosamente onorevoli. Una per la quale mi ha preso in giro mezzo Twitter è stata proprio la sconfitta della Juve a Berlino col Barcellona. Quella per me è una sconfitta, e lo ribadisco, a testa altissima, e come quella ce ne sono state molte altre nella storia che hanno riguardato tantissime altre squadre. Quando dai il massimo veramente hai vinto, però è giusto che l'atleta professionista, che quindi vive una sfida di eccellenze contro altri professionisti eccellenti, debba avere quell'ossessione lì in testa, e in qualche modo è bello che ce l'abbiamo anche noi, cioè ogni giorno uno dovrebbe svegliarsi con la voglia di star bene, la voglia di fare delle cose che lo fanno star bene, quindi da questo punto di vista secondo me è utile a tutti. Senti Giovanni, tu non hai mai letto invece un libro che si intitola La solitudine dell'ala destra? No. Di Fernando Acitelli. Io ero abituato alla solitudine del portiere, solitudine del centravanti, l'ala destra no. A me è venuto in mente a proposito di centravanti, Toni era a Modena in Serie C1. Quindi resta solo Totti. Restano i due Highlander. A proposito invece di cinematografia, perché secondo te la solitudine all'ala destra? Franco Causer, ti sei mai sentito solo all'ala destra? Assolutamente, anche perché dalla assolutamente mia parte sì o no? No? No, assolutamente no, perché dalla mia parte avevo sempre un allenatore che mi diceva cosa dovevo fare, quindi poi avevo trappattoni, a un certo punto mi davanti all'orecchio apposta di sentirlo fischiare, quindi cambiavo zona, andavo dall'altra parte, quindi facevo finta di niente. Io non mi sono mai sentito solo, anche perché non potevi stare da solo perché eri tu con la palla, ce l'avevo sempre io, quindi non avevo problemi di questo. Condivido la riflessione, tu con Conte saresti titolarissimo, eh? Lui impazzisce per gli esterni, vuole solo Antonio? Antonio lo conosco da quando era ragazzino nel Lecce, quindi era ancora nella primavera, io giocavo nel Lecce, ero capitano nel Lecce, quindi lui era lì che stava tirando i primi calci. Comunque Antonio è sicuramente, per quello che sta facendo, uno dei migliori sicuramente nel suo lavoro, sì. Speriamo che vengano fuori qualche talento importante, in modo che lo possa aiutare all'europeo, perché è molto importante, quindi. Che ci aspetta l'europeo. Sì, dimmi pure. Ma tu che lo conosci bene, ci credi a questa voglia di restare in nazionale anche dopo l'europeo? Io ci credo poco, sono sincero. Ho molti dubbi. Però sai, mai dire mai nella vita, non sa mai cosa ci riserva. Lui è giovane secondo me per diventare CT a tutti gli effetti, e dopo il primo biennio tu vuol dire che dai un profilo diverso alla tua carriera, saresti lì. Bah, assolutamente sì, che io non sarei neanche andato sinceramente, però un'esperienza, come ho sentito così che lui sta facendo, però aveva anche le possibilità di andare in qualche altro club di nome, non so perché ha scelto la nazionale sinceramente. Magari forse per smarcarsi dal passato juventino, la butto lì io così, non credo proprio, lui è sempre juventino dentro. Non ci torna mai dire mai, ripeto, perché non si sa mai cosa possa succedere, cosa ti riserva. Non si sa mai cosa c'è dietro l'angolo, diceva Maurizio Costanzo. A proposito di citazione, non si può escludere che ci torni, secondo me. Però io credo che in questo momento Conte sia soprattutto un grande professionista, e quindi che guarderà laicamente alla soluzione che riterrà più interessante per lui e per la sua carriera. Credo che al primo posto ci sia l'estero, come diciamo ormai da giorni, nei suoi desiderata. È chiaro che la Juve rimane una soluzione di straordinario prestigio, quindi voglio dire, se ci dovesse essere quell'opportunità, io penso che credo che a parità di condizioni tecniche, non parlo neanche di discorsi economici, a parità di condizioni tecniche la Juve avrà sempre una priorità, però potrebbe anche essere invece attirato da altre sfide, magari da rinunciare piazze diverse o magari dal consolidare questa immagine ormai di uomo di tutti, che è particolarmente importante perché appunto ieri parlavamo della differenza fra lui e Del Piero. Insomma, Conte è uno che da sempre incarna lo spirito della Juve in maniera molto antagonistica rispetto agli altri, mentre Del Piero è sempre stato, diciamo, un leader tecnico amato in tutto il mondo, anche dagli avversari. Conte era garra, era grinta. Posso chiederti, Nicola Antuono? Perché, insomma, per chi non lo sapesse, il barone vive a Udine, collabora con TS Channel, che si è un po' persa la magia. A me non è dispiaciuta la squadra contro il Napoli, però insomma, leggiamo voci di possibili esoneri, se la situazione dovesse... Tu sai benissimo che contano molti risultati per un allenatore, quindi io credo domenica loro hanno una partita molto difficile contro la Sampdoria, quindi cambiato allenatore, motivazioni diverse. Sicuramente l'allenatore è appeso sempre ai risultati, come ho detto. Io mi auguro che domenica, almeno questa cosa non c'è in questo momento di cambiare allenatore qui. Poi non lo so come nella testa della società, io non entro, non so cosa hanno i Bozzo, perché sono loro che comandano, loro che fanno e disfano qui a Udine. Però in questo momento non c'è quell'idea. Poi l'ipotesi. Senti, c'è chi mi scrive che eri fortissimo, ma con Alessio Tendi non l'hai mai vista. È Stefano da Firenze. No, non è che io non l'abbia mai vista. Con Alessio Tendi non la vedevi mai. È che tutte le volte che finivo la partita gli regalavo la maglia, perché me la teneva sempre. A un certo punto gli dicevo: questa è la maglia, portatela a casa. Comunque era un grande. Ci ricordi, magari l'avrei scritto nel libro, il soprannome Barone è dovuto a chi? L'ho scritto, tu devi capire che in quel momento lì c'erano due firme importanti a Torino. Uno era Vladimiro Caminiti del Tutto Sport, e l'altro era Fulvio Cinti della Stampa. Sì. E uno, Vladimiri, mi chiamava Brasil, e Fulvio Cinti Barone, perché per modo di eleganza riuscì di vestire, di muovermi in campo, per lui ero, sembrava un baronetto, visto che arrivavo da Lecce, no? Quindi allora, e poi è andato avanti, sai, quando ti fai la nomea è andato avanti questo, però per Vladimiro Caminiti è Brasil, no? Brasil Causio. Ma invece, scusa, la famosa partita sull'aereo con la Coppa del Mondo messa lì a reggere le carte, sì, vogliamo ricordare marcatori e punteggio? Eravate tu e io ero con Bea, quindi con Bea Zotto, col Vecchio Bertini, con Dino, col grande Dino Zoff. Quindi... Ecco, il risultato finale? Abbiamo vinto noi, perché io feci una furbata pazzesca nelle ultime mani. Tu sai che quando giochi a scopone scientifico, quindi devi ricordare i pari, i dispari, cioè certo, le ultime quattro mani c'erano gli sette a giro, tirai Mazzieri loro, buttai fuori un sette, Dino non lo prese, Bea aveva il sette bello e... Si chiama sette dispari in prima mano? Bravo. qui c'è qualità, c'è qua, no, sette come prima mano? Prima mano, se sei fuori mazzo, giochi anche il sette singolo. Se non sei di mano, qui cambia la terminologia. Se non sei di mano, vuol dire che se non hai il mazzo, insomma, dai. Comunque, sì, è chiaro. A proposito di metafore, ricordando, insomma, vincere l'unica cosa che conta, lo spariglio dello scopone scientifico è una delle grandi metafore della vita, eh? Si applica a mille concetti. È capire se vale la pena fare la rivoluzione oppure no, in qualsiasi momento, se stai bene o se devi. Lo so, è il problema. L'ho fatta in un momento della mia vita, ho sparigliato tutto, ho trovato un'altra persona in cui sono ancora innamorato, quindi più di questo, più di sparigliare in quel modo lì. Eh sì. Senti, ma dimmi un'ultima cosa: l'asse, come qual era il segnale per l'asse? Adesso puoi dirlo. Come era il segnale? Come segnalavi l'asse al Vecchio quando avevi in mano l'asse? È stato lui a segnalarmelo. Come? Non era tanto pratico, eh? Ah. Era bello, cos'è? Bacino, non lo so io. Come si faceva? Con le labbra. No, con la sopracciglia. Quindi Ancelotti non potrebbe giocare. Cioè. Ancelotti non può giocare. No, perché ha uno sopra e uno sotto, è difficile capirlo, Carlo. Quindi grazie Barone, È stato un piacere sentirvi. Piacere per noi. Ciao Franco. Ciao Pier. Allora, ci fermiamo per la borsa. Sono andato avanti ore a parlare di scopone scientifico con Causio. Però c'è la borsa. Sentiamo la borsa. Poi arriva bene. Molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'istituto tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta. Tutti convocati. Ecco che torniamo, oggi siamo in abbondante e piacevolissima compagnia oltre a Giovanni Capuano. Mi ha raggiunto Marco Berinazzo dal Sole 24 Ore, ciao Marco. Buon pomeriggio a tutti. E c'è Pierluigi Pardo che è in macchina con il signor Emanuele. È sceso un attimo dalla macchina ma adesso lo riagganciamo. E scriveva Emanuele, sento così bene che mi sembra di averlo in macchina. Vabbè, riproviamo. Andrea da Perugia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo fare una domanda, sentire con calma per radio la vostra risposta. Sì. Non so se siete a conoscenza che in Umbria, a livello settore giovanile e giovanissimi, quindi dai 12 ai 14 anni, i campionati prevedono promozioni e retrocessioni per le squadre di quell'età lì. E questo ha creato un flusso di migrazione di ragazzini di quell'età da una città all'altra per il gusto di giocare in A1, A2 piuttosto che provinciali. E a me sembra che questo sia solamente un discorso di guadagno solo di quelle grandi società, delle grandi, tra virgolette, società che hanno possibilità di avere ragazzini in campionati superiori, e si perde completamente lo spirito che la piccola squadra del piccolo paese possa vincere campionati. Sì, sì, no, ma non mi sembra, guardi, io non lo sapevo, non so, i miei illustri ospiti, non lo sapevo, ma comunque mi pare una pessima idea. Sì, tra l'altro giusto settimana scorsa abbiamo letto del modello belga, quello che ad esempio i ragazzi fino ai 13-14 anni nemmeno li fa giocare 11 contro 11, ma progressivamente 2 contro 2, 3 contro 3, 5 contro 5, 7 contro 7, 8 contro 8, perché poi quello che conta lavorare sulla tecnica, sì, e loro nei centri federali che dopo il 2000, dopo il fallimento dell'Europeo, hanno messo in piedi, avevano impostato questo tipo di lavoro per cercare di coltivare una nuova generazione di talenti, cosa che evidentemente gli è riuscita, visto che bella squadra è il Belgio oggi. Ma sai, però davvero che ci siano anche promozioni e retrocessioni a quell'età mi sembra assurdo, è un po' una follia. Mi sembra assurdo. Poi c'è chi è bravo a costruire i giocatori e chi anche a livello giovanile insegue i risultati. Questo è sbagliato, ma se siamo realisti dobbiamo sapere che è così. Marco Berinazzo. Assolutamente d'accordo. Senti, con voi, inutile aggiungere altro. Io senza, poi andiamo su altri temi, però io senza troppi giri di parole voglio chiederti una cosa, perché sono curioso come una scimmia. Di chi è la Sampdoria? Beh, la Sampdoria... Cioè, ho fatto un giro di parole, eh? Sì, l'hai toccata piano, come si dice nelle trasmissioni illustri. Tra l'altro ne avevamo parlato qui l'altra volta di possibili interessi di Volpi, dello Spezia, quant'altro, insomma si è scatenata poi una ridda di discussioni in Liguria e non solo, naturalmente alla Spezia sperano che Volpi resti lì e li porti in Serie A. È sul mercato mi pare, no? Beh, lo è nell'ottica in cui Volpi dovrebbe, appunto, anche se costantemente smentisce, in realtà a settembre ha ammesso che c'è un 10% di possibilità che avvenisse l'acquisto, credo percentuali in crescita. C'è tanto interesse intorno alla Sampdoria, anche magari la sua voglia di tentare un'esperienza più importante. Sappiamo che c'è anche Briatore che è nel pool di coloro che dovrebbero subentrare a Ferrero, proprio perché la proprietà formalmente passata a Ferrero e alla sua holding, che ha un capitale sociale di 1000 euro e l'80% appartiene alla figlia. Quindi, per risponderti formalmente, direi la Sampdoria è di Vanessa Ferrero. Sì. I soldi formalmente dal punto di vista economico, finanziario, del sostegno che viene ancora assicurato al club è ancora della famiglia Garrone, che è uscita, che però non vuole far fallire la Sampdoria e vuole che appunto ci sia una sorta di passaggio attraverso la presidenza a Ferrero a una proprietà più solida e che possa garantire un progetto di lungo termine. Quindi noi sappiamo di chi non è, scusa, non è di Massimo Ferrero, no? Mettendo insieme tutte queste cose, Pier. Sì, sono forse sceso dalla macchina, ma sei sceso dalla macchina da riproveremo a salire. Domani ci torni. Vabbè. Senti, no, quindi però scusami, qual è la ratio, la strategia di Garrone in questa storia? Beh, nel senso, cioè, a questo punto faccio il discorso proprio da profano, uno che continua a mettere i soldi sulla società vuole eventualmente anche beccarsi gli onori, no? O forse c'era il rischio che fossero più gli oneri degli onori? È esattamente questa la ricostruzione. Garrone hanno speso più di 200 milioni, solo 100 milioni di ricapitalizzazione negli ultimi 5 anni. Hanno cercato un compratore, anche perché sono stati episodi molto spiacevoli che hanno riguardato la famiglia Garrone e accuse pesanti di una parte della tifoseria in momenti difficili, anche nei confronti del papà che poi è deceduto e che tanto ha fatto per i colori blucerchiati, e quindi c'era una insofferenza di fondo verso questa proprietà e la voglia di fare altro, di non spendere più, ma allo stesso tempo però un amore verso la Sampdoria che ha spinto Garrone comunque a restare, a tenere in piedi dal punto di vista finanziario anche questa gestione, in attesa di trovare un compratore e magari lasciando a Ferrero la possibilità di provarci. È chiaro che Ferrero, non dico nulla di particolare, non ha i fondi, le risorse necessarie per finanziare un progetto come la Sampdoria, che è un progetto pericoloso perché abbiamo una realtà che ha un fatturato molto basso, 60-70 milioni, e ma ha una storia ed aspirazioni nella tifoseria molto alte. Sì, e quindi coniugare le due cose non è sempre semplice. Al di là del fatto che c'è chi scrive che addirittura la Samp come Spezia e Verona sono di Volpi, questo scrive uno via WhatsApp, saranno leggende metropolitane. Sì. Però quello che dico io è che un allenatore, diciamo top come Montella, che avevano comunque stava prendendo uno stipendio alto dalla Fiorentina e conosciamo la storia, abbia deciso di andare alla Sampdoria, con tutto rispetto per la Sampdoria. Cioè, questo mi fa pensare che, punto primo, Montella prende molti soldi anche alla Sampdoria, meno di quanto ne prende alla Fiorentina, però mi pare 1,5 milioni a stagione, ha un contratto fino al 2018, se non sbaglio, una cosa del genere, questa stagione, una cosa del genere. Ok, mi lego per questo periodo alla Sampdoria, però voglio sapere dove vado. Certo. Quindi la mia idea è che qualcuno qualche garanzia gliel'abbia data. Mettiamoci nella condizione appunto di Montella, no? Bravo, che non fa analisi di bilancio e verifiche, però esatto. Legge sui giornali che magari sono state pignorate le case di Ferrero, ci sono procedimenti in corso per bancarotta, magari cose del passato, però ecco, considerando tutto, uno ha una famiglia, per quanto sia un privilegiato, però cerca di mantenersi in una condizione di sicurezza. Non è questione di essere maliziosi. No, è chiaro, è semplicemente una questione logica. No, Giovanni, la pensi anche tu così? Sì, poi su Montella forse hanno inciso anche altre cose, compresa la volontà di uscire da un rapporto con la Fiorentina che si era fatto complesso, perché poi i Della Valle avevano in qualche modo aperto alla Samp, chissà se fra sei mesi avrebbero aperto a qualcun altro. Montella aveva ancora un contratto fino al 2017. Sì, sì, però ne sarebbe uscita a fine stagione. Onestamente, guarda, il cimitero di Firenze è pieno di quelli convinti che in qualche modo sarebbero usciti dal rapporto con i Della Valle. E Montella, da questo punto di vista, non so Pier se sei d'accordo, è un privilegiato, perché gli altri alla fine hanno dovuto aspettare o la scadenza del contratto o le condizioni dei Della Valle. Jovetic avrebbe fatto carte false per andare alla Juve, ad esempio. I Della Valle applicano delle regole che sono abbastanza distanti dalla prassi, dalla consuetudine del mondo del calcio. Quindi diciamo che quel buon senso, no, il fatto poi alla fine di cambiare idea e di venirsi incontro, mi pare che nella gestione siano molto diversi, insomma, dei comportamenti, ma legittimamente, lo dico, nel senso che alla fine sono forse molto più simili a quelli del normale mondo del lavoro fuori dal calcio rispetto, no, a quelli che a quelle che sono invece le consuetudini del calcio. Quindi da questo punto di vista, premesso che poi ognuno fa quello che gli pare nella vita, però mi sembra che insomma siano abbastanza nella categoria della serietà. Della coerenza, del rigore, il nostro modo di procedere anche, questo. No, quello poi diventa anche un po', in certi casi invece essere un po' rigidi. Quindi sicuramente Montella ha fatto un gran colpo, secondo me. Sì, ma una rigidità che Della Valle pagano, perché è questo che è questo che, cioè, non è che è gratis, cioè non è gratis questo tipo di atteggiamento. È un atteggiamento che costa anche parecchi quattrini, come era nel caso di Montella. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. L'ascoltatore in linea non c'è più, invece c'è un ascoltatore che si chiama Bernardo che da giorni mi scrive un sms, magari poi te lo chiedo, ricordamelo Marco Berinazzo, ma perché lo Juventus Stadium non ha ancora un nome e uno sponsor? Traffico. Spot per noi, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Ci siamo? Quando segni il signo frate cap narra boss, coso frate boss, quando sta Lorenzo frate paghi in overdose, coso frate boss, quando trasse Clementina cap narra boss, coso frate boss, sento come pompo frate pompo, coso frate boss, ha! Un microfono buono su caccia strana, Clementina caccia si proiettile napolitana, perché la catarongo frate song come cana, microphone check, o questo dedicato anche a Marco Berinazzo, a Clementino rapper napoletano che canta con Insigne, che non viene convocato in nazionale, ne approfitta per farsi una cantatina. Rispettiamo diciamo la scelta di Conte, no? Di intransigente. Io rispetto fino a un certo punto la scelta di trovare il più forte giocatore italiano, perché ti stai preparando. Il problema vero è cosa doveva fare Insigne, cioè rischiare di farsi male. Andare oltre quello che era il dolore, qual era la pretesa di Conte? Credo sia stata una questione di forma, insomma, sì. se è vero che Insigne ha passato mezza giornata al telefonino facendosi dettare la linea dal club, evidentemente questa cosa Conte non la può accettare. Poi sono tutte le società che mettono pressione sui CT, ma non Conte. Vale per Prandelli, valeva per Conte all'epoca quando allenava la Juventus. Poi probabilmente esiste anche una forma per farlo, esiste anche la necessità forse per Conte di estremizzare un concetto a 7 mesi dall'europeo. Però dobbiamo appunto chiederci anche, appunto, si fanno le amichevoli, il Napoli ha una certa rosa, un certo costo che non può superare per evidenti ragioni di bilancio, ci sono le amichevoli e tornano due giocatori fondamentali come Mertens e Gabbiadini infortunati. È un danno oggettivo per il club. È il rischio di avere quelli buoni. È il rischio di avere quelli buoni. Poi tu sfondi una porta aperta. I club lasciano i giocatori delle nazionali 45 giorni negli anni dispari, quindi quelli che non contano quasi nulla, e fino a 90 negli anni pari. Secondo me è anche troppo. Ed è assurdo che poi i vari CT da Conte, ma non solo Conte, si lamentino e chiedano di più. Calendario. Però considerato che poi ci sono nazionali, ad esempio, che fanno accordi commerciali, penso ai famosi tour del Brasile per la Nike in giro per il mondo con partite completamente inutili, pagate milioni e milioni di euro, di dollari, tu pensi che loro fanno tutte queste cose sugli spalli di stipendi pagati da altri. Magari un ragionamento si potrebbe fare, ma un ragionamento di calendario, come abbiamo detto tante volte, secondo me piazzando le nazionali alla fine dei campionati, insomma, è il discorso solito di buon senso, secondo me, che abbiamo fatto mille volte. Stiamo Roberto da Padova. Sì, buongiorno a tutti. Dica. Ascoltavo prima un altro ascoltatore che chiamava dall'Umbria, che diceva che al settore giovanile ci sono promozioni e retrocessioni a partire dai giovanissimi. Io vivo in Veneto, anche qua è la stessa identica cosa. Ma non è che mi scandalizzi tanto per le promozioni e le retrocessioni, quanto il fatto che la mentalità purtroppo di troppa gente che sta nel mondo nel calcio, anche a livelli semplici, ritiene di dover scimmiottare le cose che fanno gli allenatori più importanti. Sì, ma non è tanto la promozione o retrocessione che può spingere il ragazzo a certi comportamenti o a divertirsi più o meno. Sì. È l'intelligenza o meno di chi lo allena o della società dove questo è vero, è sacrosanto. Fatto sta che è una formula che posso dire che non mi piace, promozione e retrocessione nei campionati giovanili. Pierluigi, hai sentito? Io sono un po' distratto perché ho davanti a me Melissa Satta con Stivale Basso che sta palleggiando, poi c'è Raffaele Auriemma, Vito Valenti, Graziano Cesare. Volete parlare con qualcuno di questi? scegli tu. Scelgo, aspetta. Scegli tu. Melissa, raccontaci soltanto dove hai imparato a palleggiare. Radio 24, non ti devo parlare. Dove ho imparato a palleggiare? A Quarto Sant'Elena, quando giocavo in Serie C femminile a calcio. Che ruolo eri? Faccia sinistra. Auriemma, può andare bene. Auriemma, imparando a palleggiare. Senti, è vero che Ciccio Valenti già ti ha chiesto fatecene pochi in occasione di Napoli Inter. Andateci giù duro. Ha detto così, eh? L'avete sentito tutti? Siamo in radio, ecco. Ciccio Valenti, un attimo. Cosa ha detto? Ripetimi cosa ha detto. Che cosa hai detto? Hai patteggiato un pareggio? Hai chiesto un pareggio? Ho detto, tanto un saluto a tutti e... Carletto. Ciao Ciccio. Carletto. Ciao Ciccio. Ciao Ricolato. Sto limonando con 300 kg io, Ciccio Valenti e sto limonando con Pardo in fondo a via Padova a Milano. Che brutta immagine, mamma mia. Lo so. Però c'è anche Verizza, quindi anche Verizza fallisce e noi limoniamo. Che meraviglia. Allora, avete patteggiato un pareggio? No, non si patteggia niente. Ok, sto da Orema, mi raccomando, comportati bene. Punto, basta solo quello, no? Cioè, nel senso, è molto molto sereno, io riconosco la forza del Napoli, ci mancherebbe. Cosa vuol dire comportati bene? No, comportati bene nel senso che insomma quando loro partono in quarta quindi un pareggio accontenterebbe tutti, no, mettiamola così. Dicendo tu, no, perché poi io non so come fate voi. Poi scrivi e se tu no, io ci so, le sono le agenzie, no, sono i siti internet, come Pardo sa, siti internet, Valenti due punti. Mi prego di palazzi dell'ufficio inchieste direttamente sulla No. Va bene. Grazie Ciccio. Tanto c'è il Frosinone, adesso vi faccio parlare con il direttore di gara, con Graziano Cesari, per fare un bilancio pacato e sereno di quello che è successo fin qui. Come si stanno comportando? Arbitri? Ah, malissimo, super male si stanno comportando. È proprio pacato, eh. No, sto scherzando, chiaramente. Bene. Chi è migliore? Chi è il miglior assistente? Cariolato. No, a parte le battute, chi è il miglior assistente? In questo momento ti devo dire che mi piace moltissimo Tonolini, che è uno di Milano. 30 capelli, ma molto bravo. Pier, c'è Capuano che aveva una domanda per Cesari. No, io ne ho due ragioni di vita. La prima è che torna Rocchi ad arbitrare la Roma 412 giorni dopo il famoso Juve-Roma. E la seconda? La seconda è perché Gervasoni per la terza settimana di fila va a fare l'addizionale dopo Sassuolo-Juve? No, perché ci sarà un motivo, perché Sassuolo-Juve è stata una partita mal arbitrata e inevitabilmente Tiki-Taka l'ha denunciato. Allora possiamo dire che l'hanno messo in castigo, visto che non si poteva dire. Possiamo dire che l'hanno messo in castigo. Ha sbagliato tanto. C'era Pierluigi anche come telecronista e già in telecronaca aveva evidenziato questi errori qua. Poi, inevitabilmente, sotto la lente di ingrandimento si sono viste delle situazioni veramente imbarazzanti, quindi per la terza settimana. Poi sai, non è neanche più tanto giovane, quindi non è che devi recuperare qualche cosa, qui devi limitare i danni possibilmente arrivando fino a giugno. Grazie a tutti, grazie alla compagnia di giro che Pardo ci ha portato al microfono. Ci fermiamo per il GR. Hai altri 5 minuti, Marco? Perché avrei un paio di argomenti che sono rimasti in sospeso e che vorrei approfondire. Giovanni Capuano rimane qui con me, dopo GR ci ritroviamo. Abbiamo ancora Carlo per un'ultima domanda. Sei pazienza un secondo? Carletto. Ciao. Tutti convocati. Angelo, non prendere impegni per il 2 di dicembre. Che cos'altro abbiamo in agenda? Ma è possibile che devo dirti tutto io? Saremo tutti alle 20:30 all'Auditorium Gruppo 24 Ore, in via Monte Rosa 91. Per Chiedimi se sono felice live. Sì, mi ricordo, l'ho segnato sull'agenda, segnatevelo in rosso anche voi. Sarete lì con noi, avremo diversi ospiti e parleremo della felicità. Che cosa ci rende felice dei nostri amici animali e come noi possiamo rendere felici. Per ricevere l'invito della serata dovete andare sul sito di Radio 24 e compilare il forum dedicato all'evento. Ciao! Fabbrica 2.4, viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati all'80024 0024, oppure messaggi 349-238-6666, vale anche per i WhatsApp. Giovanni Capuano qui con me, soprattutto Marco Berinazzo che è rimasto con noi, strappato al Sole 24 Ore. Fedele a questa sedia, non mi sono mosso da qui. Allora, Lorenzo da Firenze, e poi mi spieghi l'arcano perché lo Juventus Stadium non ha ancora il suo bel naming rights. Lorenzo, buongiorno. Pronto, buonasera. Buongiorno, dica. Senti, no, io non ho seguito gli ultimi minuti perché non potevo, non potevo ripetermi, ma si parlava di Totti. Sì. Ma io ritengo che il capitano sia quello che incarna più di tutti i valori positivi dello sport in questo contesto italiano. Perché una persona come lui che riesce a fare dell'autoironia, a fare un sacco di beneficenza, a giocare in una maglia sola tutta la vita, cioè è un esempio, è meraviglioso. Io non sono di Roma, però ritengo che lui sia proprio al di sopra di tanti. Io Buffon non lo conosco, però lui sono quasi arrivato a conoscerlo personalmente, ma è una persona che aiuta tantissimo, che sì, fa, sì, cioè, beh, ma al di là di quello, la carriera di Totti sta lì a dimostrarlo, no? Con le sue ombre, le sue qualcuna, le sue mille luci, e certamente è il simbolo della Roma, ma la Roma lo ha ricompensato comunque con lungo contratto che si estende anche il giorno che Totti si ritirerà. Ci alzeremo tutti in piedi, ma credo sicuro, sarà... io mi auguro che, come per Del Piero, come per Baggio, come fu per Roberto Baggio, ci sia l'occasione che possa essere un ritiro lungo un anno, cioè si sappia questa è l'ultima stagione e dove va si dà modo anche agli altri di sì, rendergli omaggio. È un grande classico americano. Capitò anche a Paolo Maldini ad esempio, ufficialmente ha lasciato il calcio a Firenze, e a Firenze ci furono 40.000 tifosi della Fiorentina che lo omaggiarono. La settimana prima c'era stata quella scenetta poco edificante con la curva sud, ricordiamo bene, a San Siro. Però questi campioni qui sono di tutti, davvero, adesso non è retorica. No, sono trasversali e questa è una cosa meravigliosa che nasce dallo sport americano, dove appunto il giocatore annuncia normalmente, il grande giocatore con un anno d'anticipo il suo ritiro, e fa l'ultimo giro d'onore in tutti i palazzetti. O gli stadi, a proposito stadi, perché non ha il nome? Così Bernardo è contento. Beh, Bernardo da Rocca Palumba, non so dove sia, ma comunque chiede questo con insistenza. Tecnicamente la Juve i naming rights, i cosiddetti naming rights, li ha ceduti, nel senso che nel contratto con cui questa agenzia di intermediazione Sport 5 ha finanziato in parte la costruzione dell'impianto con circa 75 milioni, c'è stata questa cessione, doveva fare da intermediare questa agenzia, trovare un soggetto adeguato. Evidentemente nel contratto c'erano accordi per cui non si poteva scendere oltre certi livelli di ricavo o di offerta da parte dell'eventuale sponsor. Questo perché i naming rights valgono, e valgono soprattutto la prima volta che tu li cedi. Sì. Perché poi nella testa delle persone certo, l'abbinata stadio con il nome è quello. E quindi, Zanera, vabbè, esattamente. Quelli successivi hanno minor valore. E quindi si sta, credo, aspettando qualcuno. Si è parlato a un certo punto di Samsung, si era parlato di varie ipotesi, non si è mai arrivato poi a concludere l'accordo. C'è ancora qualche anno a disposizione e vedremo se nel frattempo qualcuno si alzerà, insomma, capirà che anche sponsorizzare lo Juventus Stadium può dare ritorni, ecco, dal punto di vista commerciale. Sì, anche se ad andare avanti col passare degli anni c'è il rischio che poi resti lo stadium e basta, cioè nella testa dei tifosi, nella testa dei clienti, perché l'effetto non è solo per il nome, per l'abbinamento commerciale. A me viene in mente il Palatrussardi. Palatrussardi poi ha cambiato mille nomi, ma per tutti a Milano è oramai il Palatrussardi, e non credo nessuno si ricordi gli altri sponsor che gli hanno dato quello che però il rischio, io mi viene in mente, se domani mattina venisse dato il nome ad esempio a San Siro, già oggi i milanesi fanno fatica a chiamarlo il Meazza, perché storicamente è San Siro. Immagino che se domani uno sponsor desse il nome a San Siro, probabilmente non avrebbe lo stesso effetto. Ovviamente ci vuole anche qualcosa di nuovo. È chiaro. È lo stesso motivo rinomato. Per cui, per esempio, Real e Barcellona, che hanno in progetto importanti programmi di ristrutturazione dei propri impianti, e magari non avrebbero tantissimo bisogno se li confrontiamo a quelli italiani, ma comunque sono progetti da 300-400 milioni di euro che dovrebbero essere in gran parte finanziati come naming rights. Ora, a parte la contrarietà dei tifosi a sentire, no, la denominazione dello stadio abbinata a uno sponsor e quindi la sacralità dell'impianto, c'è anche questa difficoltà effettivamente di trovare uno sponsor che abbia il coraggio di associare il proprio nome al Camp Nou, al Santiago Bernabeu, oppure per esempio all'Old Trafford. Il Manchester United ha i naming rights sul centro sportivo, ma non ce l'ha sullo stadio, perché l'Old Trafford è l'Old Trafford. Ma probabilmente il discrimine sta nel fatto che è facile trovare, diciamo così, un acquirente se l'impianto è nuovo, se l'impianto ha una certa storia. Diventa un po' più complicato, ho l'impressione. Saverio Padova, buongiorno. Salve, buongiorno. Volevo intervenire per quanto riguarda la nazionale. Sì, un attimo solo. Ragazzi, informazione per i naviganti. Berinazzo vi parlerà della vendita del Milan, perché mi arrivano messaggi ovunque. Sto close, Mr. B, dopo risponde. Dica, Saverio. Niente, volevo dire una cosa. Voi forse non l'avete messo in evidenza, forse perché per tutelare, tra virgolette, la nazionale. Ma parliamoci chiaro, questa è una squadra di operai. Cioè non c'è più il Pirlo della situazione, il Del Piero, il Totti che ti risolvevano la partita. È un campionato breve come l'europeo o come può essere il mondiale, ci vogliono questi giocatori, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Io la penso abbastanza come lei, Cioè Conte ha voluto e vuole comunque una squadra di giocatori molto dediti alla causa. Non è peraltro colpa sua se Totti, Del Piero, Totti gioca ancora ma non è più arruolabile in nazionale, non è colpa sua se non emergono questi talenti. Potrebbe essere colpa sua l'emarginazione di quei pochissimi talenti che ancora abbiamo. E del resto noi il top player ce l'abbiamo in panchina, no? Anche come stipendio, e quindi se c'è un momento in cui Conte deve fare la differenza, quel momento è arrivato adesso. Io credo, oggi Franco Ordine scrive sul giornale che questa è una buona nazionale ma ha bisogno di Balotelli, perché senza Balotelli, con gli attaccanti che ha lì, non ha possibilità di restare a galla in un europeo che non ha una vera favorita, per cui certamente l'Italia parte almeno dalla seconda, terza fila. Io non so se sia così, tra l'altro Balotelli torna tra gennaio e febbraio, quindi diventa davvero tutto molto complicato, perché poi la verità è che c'è un ultimo turno di convocazioni, che è quello di marzo, per la doppia amichevole con Spagna e Germania. Lì chi è fuori? Probabilmente è fuori definitivamente, a meno di clamorosi cambi di scena nel finale di stagione, però ha ragione l'amico, insomma, sì. La qualità è quella che è, ed è il motivo per cui secondo me Conte si è infuriato l'altra sera quando ha visto per l'ennesima volta l'Italia prendere gol stupidi in difesa. Ne ha presi 5 nelle ultime due, quasi certo, tutti regalati, e se tu già hai poca qualità davanti e se poi regali gol, anche dietro, ne prendi 5 in due partite, diventa un problema, diventa più di un problema, diventa più di un problema. Marco, illuminaci un attimo sul Milan allo stato dell'arte, perché c'è una chiedere. No, lo so, spesso me lo chiedono, insomma, come se stessi facendo io la trattativa. Io ho poche informazioni in questo momento, il che mi induce a credere che siano varie delle ultime che ho ricevuto, cioè che si stava procedendo con estrema calma per non incorrere in situazioni come quelle recenti di brutte figure, e quindi si sta cercando di mettere a punto tutti i tasselli prima di arrivare all'annuncio, insomma, che comunque per il quale non c'erano volutamente delle date. Però mi era stato promesso, insomma, qualche news in questi giorni, non sono ancora arrivate. Le attendiamo con fiducia. Appena ce le ho, le darò. le attendiamo con fiducia. Senti, un altro tema invece che sta molto a cuore dopo una settimana, a chiusura di una settimana dannata come questa, è quello della sicurezza degli stadi, perché come sappiamo non sarà un weekend semplice, non solo in Italia, ovviamente in tutta Europa, le misure di sicurezza ad esempio intorno al classico saranno straordinarie, con 3 anelli di protezione dello stadio. Con ogni probabilità anche in Italia ci saranno, anzi levo il con ogni probabilità, anche in Italia ci saranno misure di sicurezza straordinarie. Siamo in una fase storica molto, molto difficile, quindi è normale che si debbano prendere questi provvedimenti. Il calcio, con tutta la sua risonanza, è stato preso a bersaglio dai terroristi che non scelgono a caso i loro obiettivi, ed è stato scelto lo stadio francese, è stato probabilmente scelto anche il match successivo della Germania, che è stato annullato a pochi minuti dal termine, colpendo due nazioni che avevano fatto proprio dell'integrazione una delle chiavi di volta della propria storia. Io credo ora che si debba ragionare con calma sul da farsi dopo questa fase, diciamo, di estrema emergenza, senza prendere o pensare a misure demagogiche. Noi veniamo, per quanto riguarda il profilo della sicurezza, da una fase in cui c'era parlato, se vi ricordate, dell'ipotesi, anzi più dell'ipotesi, della volontà da parte del governo di far pagare la sicurezza anche fuori dagli stadi alle società di calcio, pagando in particolare gli straordinari delle forze dell'ordine. Sì. Quel provvedimento è stato trasfuso in una legge e non è stato mai approvato, bisognava approvare un decreto, si parlava di dall'1 al 3% del fatturato al botteghino, da 2 a 6 milioni. Sì. Chiaramente è una misura, era una misura demagogica e la considero un oggetto, diciamo, di una fase di rotaggio del governo Renzi. Però banalmente le misure di sicurezza saranno superiori, gli agenti impegnati saranno di più, i costi saranno maggiori. Assolutamente, saranno per tutti gli stati così e lo saranno per parecchio tempo, non si tratta di coprire uno o due giornate di campionato per iniziando sta stando così le cose, ed è giusto, insomma, che i paesi europei si assumano questi costi, magari eliminandoli dai costi complessivi per quanto riguarda il calcolo, insomma, del pareggio di bilancio. Senza misura demagogica lo Stato deve aiutare le società di calcio e non si può pretendere che siano le società di calcio ad aiutare lo Stato in questo momento. Paradossalmente, e prendiamole come una piccola buona notizia, a Parigi perlomeno intorno allo stadio ha funzionato il sistema di sicurezza. È vero che lo stadio era più protetto, ma è vero anche che arrivavano 80.000 persone in quel momento. Sì. E quindi quelle misure di sicurezza sono servite a scongiurare danni e morti all'interno dello stadio. Sarebbe stato ancora più grave il bilancio degli attentati di Parigi. Non possiamo, ciascuno di noi, fare la propria parte per sensibilizzare tutti a fare attenzione. E c'è la necessità in questo momento, ripeto, di una collaborazione tra il governo e i club per garantire la sicurezza, ognuno sopportandone i costi, ognuno gestendola secondo le indicazioni e secondo quello che abbiamo detto finora, cioè le società all'interno degli stadi, potenziandole magari, gli steward, pagandoli magari un po' di più, sti ragazzi che sono lì a volte per 20-30 euro e potrebbero anche rischiare la vita, e la polizia proteggendo ulteriormente gli impianti sportivi che sono a questo punto da annoverare tra gli obiettivi sensibili. Beh, chiaro, questo è chiaro. È triste, ma purtroppo è così. Lorenzo Bologna, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e grazie per farmi intervenire. E, mi rifaccio anche un attimo all'ascoltatore di prima riguardo la nazionale. E il giudizio è questo, secondo me. Bisognerebbe, a mio avviso, capire e comprendere che la ricerca disperata di talenti giovani per avere questa eventuale squadra vincitrice dei campionati europei o dei campionati mondiali a volte crea dei disastri, quindi sarebbe meglio fare, a mio avviso, come ha fatto anche la Germania, che si è presentata in alcuni campionati con squadre, diciamo, abbastanza vetuste, ma diciamo anche molto esperte, e che quindi gli ha garantito però sempre un accesso e una permanenza nel campionato stesso più lungo, vale a dire semifinali e via dicendo, insomma. Questa è la mia prima cosa. Poi, se posso, essendo di Bologna, vi volevo chiedere un giudizio non tanto sulla squadra, ma su quella che dovrebbe essere la punta di diamante della squadra, vale a dire destro. Grazie mille. Destro, lo stiamo aspettando tutti, ma anche Conte potrebbe aspettare destro, che è in potenza uno dei più forti giocatori italiani. Quanto alla ricerca di talenti, possiamo trovare mille formule, no, Giovanni? Ma non è semplice farlo con le formule dei campionati. No, tra l'altro la Germania, se non ricordo male, è, insomma, per ripartire, al di là dei vecchietti che garantivano un rendimento sicuro, è ripartita dai giovani, dai centri federali, dagli investimenti, dalla preparazione dei tecnici, è ripartita da un concetto esteso di integrazione piena, perché la nazionale campione del mondo è una nazionale che ha tanti tedeschi integrati, se possiamo definirli così. In Italia forse stiamo cominciando a fare qualcosa, però l'Italia è il paese dove, ad esempio, la convocazione di Eder fa discutere, dove c'è qualcuno che discute se Balotelli sia o no italiano, sì, semplicemente perché ha la pelle di un colore diverso. Giovanni, sono... ma sai, invece in Germania di Özil nessuno dice nulla. Guardiamo però a qualche passo positivo, insomma, in questi giorni voglio essere proattivo, come si dice in gergo aziendalista. La FIGC ha varato un progetto di costruzione di centri federali sul modello tedesco da qui al 2020, che sul territorio dovranno fare da collettori di di talenti. Certo, è un progetto che parte da qui, arriva al 2020, però se non si parte, diciamo, con le idee chiare su quello che si vuole fare, non si raggiungono mai dei risultati. Quello che hanno fatto Belgio e Germania è importante, hanno cominciato sulle rovine, sulle ceneri di fallimenti sportivi che hanno subito, e l'Italia in questo momento sta cercando, attraverso, diciamo, l'emulazione del progetto tedesco, di creare questi centri federali. Prima è stato aperto in Toscana, a Firenze, ce ne saranno circa 200, questo sì. È quello che il direttore generale Michele Uva ha indicato come essere l'obiettivo prioritario di questa è chiaro che non quadriennio. Non il problema dall'oggi al domani, certo. Però è altrettanto evidente che se non comincia a lavorare non va da nessuna parte, questo è il discorso. Mi fate sentire così, buttiamo lì un paio di altri spunti. C'è Ausilio, direttore sportivo, direttore generale, Giovanni. Direttore sportivo. Direttore sportivo, quindi alla vecchia maniera, dell'Inter, che ieri ha parlato con Gazzetta TV, e un po' di mercato, perché si dice, si scrive, si legge Candreva. Si dice, si scrive, si legge. Beh, Pirlo forse va in Turchia. Antalyaspor al principio d'accordo con Pirlo, non ci credo neanche se lo vedo. Ha parlato invece Ausilio anche di Lavezzi, allora sentiamolo su Candreva e su Lavezzi. Un po' di esperienza comincio ad averla, sono uno che impara anche abbastanza in fretta. Ci sono società e presidenti che sono talmente bravi dove non puoi nemmeno pensare di avvicinarti a questo tipo di calciatori. E siccome non mi piace né andare a creare problemi agli altri né tantomeno perdere tempo, so che con la Lazio e anche altre società questo tipo di giocatori è meglio lasciare che allora, siano dei sogni. Poniamo poi, che gennaio, se mi chiedi, mi piace, non posso dire che non allora, Candreva è un giocatore importante. Però Candreva in estate andrà via dalla Lazio. Questo non lo so. No, ho parlato con Mazzoni, quest'estate il tentativo è stato fatto, sì. Perché comunque noi stavamo cercando questo famoso attaccante esterno, seconda punta, poi abbiamo preso gli Aic. E a luglio, primi di agosto, un tentativo con Lavezzi si fece, però si capì da subito che le possibilità erano davvero poche, perché il ragazzo preferiva comunque concludere l'anno al PSG, c'era la Champions, voleva finire. Poi ha litigato con Blanc nel frattempo. Questo lo sai. Però è vero anche che un giocatore in scadenza di contratto a giugno ha dei costi e dei numeri che sono parecchio importanti. Però non si discute un calciatore come Lavezzi. Morale Candreva, un mesetto fa era sulla prima pagina, non mi ricordo se del Mondo Deportivo o di Sport, come uno comunque nell'orbita del mercato del Barcellona. Questo per dire che Candreva è un giocatore che ha sicuramente una valutazione importante, sicuramente è poco contento per alcune scelte recenti di Pioli della Lazio. Però io credo che quando Ausilio dice che per l'Inter rischia di restare soltanto un sogno, soprattutto se parliamo della prospettiva di gennaio, io credo che non menta. Quanti soldi ne ha l'Inter da spendere, secondo te? Beh, io non so quanti soldi ne abbia da spendere, so che però la UEFA sta monitorando il calciomercato di Inter e Roma, sì. Per quello che è successo, e sì. Diamo una piccola notizia in questo senso, c'è un'indagine aperta, insomma, per verificare se le modalità con cui sono state compiute le operazioni con i famosi acquisti, con i pagherò, per semplificare, siano compatibili con le prescrizioni che ha dato la UEFA a Inter e Roma, che dovevano condurre un calciomercato in equilibrio. Ora, il calciomercato estivo di Inter e Roma si è concluso in equilibrio, addirittura grazie a queste formule, e c'è attualmente in essere un monitoraggio su entrambe le società, anche in altre società europee per la verità, ma per quanto ci riguarda Inter e Roma questo non vuol dire che sarà sanzionata l'Inter, ma che c'è però questo monitoraggio, perché qualcuno... Ma secondo te si muoveranno a gennaio? Beh, l'Inter credo che debba muoversi, perché comunque deve entrare nelle prime tre, e quindi se si potrà fare qualcosa si farà, e poi si faranno i conti con la UEFA. La Roma credo che abbia meno bisogno, ma l'Inter insomma deve... Un paio di giocatorini la Roma gli ha bisogno, esterno, sì, però, destro, magari un centrale, sono due giocatori indubbiamente, però quasi, insomma, fondamentali. C'è un ingranaggio nella Roma che funziona meglio. Mancini invece ha delle urgenze che credo la società farà di tutto per colmare, accontentando il suo allenatore, e fare quindi tutto quello che si poteva fare per andare in Champions. Tu poi ripeto, a fine anno si faranno i conti con la UEFA. Ma guarda, io credo che l'Inter probabilmente ha bisogno o di un vice Icardi o di un attaccante, cioè ad esempio Candreva in quest'ottica sarebbe perfetto, perché a quel punto Mancini potrebbe puntare decisamente su un modulo con una sola punta, e però davanti avere un equilibratore che ti consente di avere un giocatore forte negli inserimenti, forte nel ripiegamento. Io su Pirlo sono perplesso, lo dico, perché è una squadra che è costruita senza un regista, secondo me è più un rischio pensare di inserirlo. E poi c'è il tema di cui ci parlava anche Fassone. Cioè l'Inter per tutta l'estate ha cercato qualcosa sugli esterni in difesa, ma il problema era che non era riuscita a vendere. Ora, se riuscisse a far partire D'Ambrosio, Dodò, questi giocatori qui, sicuramente dietro c'è da fare del lavoro sugli esterni, perché Nagatomo è riciclato ma doveva andare via, Santon doveva andare via riciclato, D'Ambrosio sta giocando ma era finito ai margini del progetto, quindi è evidente che lì c'è un margine di intervento. Diciamo che dove non c'è un margine di intervento, perché le cose funzionano, è nella coppia di centrali difensivi. Lì l'Inter ha investito per tempo, mesi fa, e ha avuto immediatamente dei risultati. Diciamo che un acquisto come Candreva davvero potrebbe spostare gli equilibri. Potrebbe spostare anche molti denari dalle casse dell'Inter. Perché come diceva giustamente Giovanni, non c'è solo l'Inter che guarda questo giocatore. Ragazzi, ci fermiamo qui. Io ringrazio tutti, ringrazio Giovanni Capuano e ringrazio Marco Bellinazzo. Ci troviamo quanto prima, con Giovanni l'appuntamento è già fissato domenica dalle 5 alle 7, e di cose da dire potete immaginare ne avremo. Giorgio De Luca, il nostro autore, Filippo Aureggi in regia, Giovanni Melchiori in redazione, ci sentiamo domani alle 2. Bellissimo spettacolo di sport, bravi!